a suonare una canzone che si chiama Avant Midi. Sabe dire? Avant, antes del mediodía. Bueno, primera lezione. Perché la prima noche con alguien. Pasa la noche, pero después vamos, chicos. Avant midi.